Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Signori, alle 8.19 è in corso una furia iconoclasta di Oscar Giannino, che è arrivato qui e ha iniziato a distruggere oggetti nello studio adesso radiofonico di Radio 24 nella sede di Milano. Mi chiede come al solito, invece come capita, invece di pagarmi, mi chiederà di pagare. Ho fatto una cronaca un po' parziale del fatto che ti è accidentalmente caduto lo schermo del computer. Mamma mia, ma sembra che sei in tribuna alla Camera, perché parli con lo stesso tono di, per certi politici che vanno in tribuna alla Camera. Esatto. Allora, volevo cominciare questa cosa. Vado al santo, ma prima del santo spiego perché non ci sono mai santi abbastanza, secondo me, per pregare e reconciliarci. Perché oggi direi tutte le notizie, no, ma ce n'è una che mi ha fatto proprio morire, questa del caporedattore Re, della sentenza della Cassazione. Ah, bellissimo. No, perché l'Italia. Io quella mi sono dimenticato di leggerla. L'Italia eterna. Ma spiegala, perché è fantastico. Allora, fantastico. Che cosa capita? Sì. In Rai, ovviamente, se sei un dirigente, in questo caso era un caporedattore, quindi sei responsabile di invitare a pagamento degli ospiti particolari, ci sono altri giornalisti che inviti, non vengono pagati a gettone, ma altri, gli esperti, vengono pagati con un gettone. Allora, nella trasmissione di cui è responsabile, invita come esperto a gettone, quindi pagata. Diciamo la trasmissione Paese che vai. Paese che vai, la moglie. Invita naturalmente la moglie. Nel modulo che compila il dirigente, il caporedattore in questo caso, le norme prevedono che ci sia l'obbligo di dichiarare è tuo parente, no, anche per evitare ovviamente favoritismo. No. Lui non barra la casella, non dice niente, ma non lo dice. L'azienda lo licenzia perché dice, ma insomma, no. Addirittura lo licenzia. Ecco. No. Ah sì, aveva chiesto il licenziamento. No? L'azienda lo licenzia. Aveva chiesto il licenziamento. Perché naturalmente si incardina il giudizio e la Cassazione reintegra. Perché? Perché? E questa è l'Italia, perché meravigliosa. La moglie... Perché il coniugio non è parentela! Capisci il casuicismo esatto. Gesuitico? La moglie non è non un è fratello, ma non capito? È un figlio. Ma io me la sono trovata di sangue, me la sono scelta. Dice tuo parente, ma me la sono scelta! Mica il parente, ti devo informare. Reintegrato! Questa è l'Italia della zecca garbuglismo. Parentela e coniugio sono due cose diverse. Io oggi andrò da mia moglie e direi che sei mio. Ma sei mio parente tu? No! Guarda che noi tra poco avremo in onda un magistrato. Glielo chiederemo se parentela e coniugio. Quando la legge si scinde dal senso comune, un paese è fottuto. Perché come si vede, la legge dice una cosa. È chiarissimo, no? Che deve dire tutti i parenti. Ma l'interpretazione diventa contraria al senso comune. Questa è la tomba di ogni certezza del diritto. Un caso particolare. Volevo cominciare la trasmissione così, direi, con tutto quello che c'è. No, ma questo dice tutto delle leggi italiane. A volte lo sai che dalle piccole storie si scopre tanto. Figurati, d'ora in poi tutti quanti dicono la moglie. C'è il precedente, mica è mio parente. Ma è suo parente, no, è mia moglie. Ma è mica un favoritismo. mia moglie, come fai a immaginare che io stia favorendo un parente? Anche un asino sa che una moglie non è un parente. No, vabbè, siamo finiti, questa è la mia opinione. Io sarei curioso, perché naturalmente a questo punto i giudici della Cassazione diranno Giannino, hai letto la sentenza? Esatto. No, perché ti permetti di parlare? Non hai titoli, coglione, stai zitto. E questo è il paese in cui in nome dei titoli si finisce al cimitero. Questa, se proprio posso dire, perché io sfido chiunque a dire la moglie non è un parente. Comunque, pregate per questo, oggi è uno dei primi carmelitani venuti in Italia, perché poi sono convinto che molti non sappiano che cosa vuol dire, carmelitani, uno pensa... Il Monte Carmelo in realtà... Barbara D'Urso, Carmelita D'Urso. No, ecco appunto. No. Sono convinto anch'io che siccome Carmelita D'Urso è la nuova Democrazia Cristiana, a quanto pare, per i suoi, non voglio dire gli anni, mi sembra un po'... cortese, anche perché bisogna fare onore al chirurgo estetico, e direi fa il bravo, faccio il bravo, lo ammette anche lei, non ho capito, però allora, il Monte Carmelo in realtà sta in Israele, capisci, e in realtà quell'ordine nasce come un ordine contemplativo, però nel 200 viene anche in Italia, introdotto in Europa, diventa un ordine mendicante ed è infatti oggi uno dei santi che da Israele vengono in Italia, Sant'Angelo da Gerusalemme, e diventa uno dei primi carmelitani e verrà mandato poi in Sicilia. Mm-hmm. Stiamo parlando di un secolo in cui l'eresia catara si sta diffondendo in tutta Europa e verrà ucciso da un nobile locale siciliano cataro per via delle sue prediche. Vabbè, e quindi oggi Sant'Angelo di Gerusalemme. E detto tutto questo, però, è anche nostra signora dell'Europa, di cui io ignoravo l'esistenza. Sono nostra signora dell'Europa e la Madonna, ovviamente, a cui i cristiani, quando conquistarono nel 1300 Gibilterra, l'estremo sud del continente, dedicarono una chiesa alla Madonna che divenne come, nota come Nostra Signora d'Europa. E poi il Papa Giovanni Paolo II, infatti, nel nominare il vescovo che è la diocesi più meridionale dell'Europa, la elevò a un vero e proprio culto, Nostra Signora dell'Europa. Io non credevo che esistesse, e mi chiedo se si sia distratta in questi anni rispetto a quello che è successo. Oggi è un giorno che gli interisti hanno strappato dal calendario, perché io ho gli amici interisti che mi hanno detto non dire niente. Famoso 5 maggio a Roma. Il famoso 5 maggio a Roma. Insieme ai fusi come immobile. E non solo Napoleone che muore il 5 maggio, ma anche questo. Però è anche un giorno in cui, per esempio, i due piroscafi eponimi dello spirito nordico, cioè il Piemonte e il Lombardo, salpano da quarto con i mille. Accidenti, se non fosse avvenuto. Poi tante altre. Monarchico, Giannino. No, che monarchico. No, il problema è l'unità fatta per scherzo della storia invece che per sviluppo coerente di secoli. Questo è il punto che secondo me continuiamo un po' a pagare. Poi oggi è il compleanno di Confindustria, che nasce nel 1910 a Torino. E, insomma, si porta i suoi 107 anni un po' così, ma vabbè. Diciamo che oggi è il giorno in cui Mussolini disse l'Italia ha finalmente il suo impero, perché cadeva a Addis Abeba nel 1936, e solo nel 1995 oggi la Cassazione faceva venire meno il nome di Dio negli giuramenti in tribunale, perché fino al 1995 il giudizio, l'impegno si prendeva anche di fronte al Padre Eterno. Tra i compleanni infaustina la storia oggi, molto infaustina la storia, lo sto dicendo apposta per provocarvi, oggi nasce di Karl Marx, uno che ha prodotto oggi disastri. No. Assoluti, era il compleanno di Karl Marx oggi, assolutamente sì, e oggi è anche il compleanno dell'Alitalia, e come pare due bei disastri uniti. Ecco. E nel 1947 oggi c'era il primo volo di Alitalia sulla Torino-Catania, non si chiamava così, ma insomma la compagnia in continuità è quella che continua a rifallire con i soldi vostri. E Gubitosi ieri l'ha detto esplicitamente: Ferrovie dello Stato, vieni a darci una mano. Non c'è un paese al mondo in cui questi due business, che sono concorrenti, basta ricordarsi l'effetto sulla Torino-Milano dell'alta velocità delle ferrovie su Alitalia, gestiti da una stessa società o con intrecci azionari. Solo in Italia la fantasia statalista si inventa gli asini che volano, perché altrove non ci sono queste cose qua. Ma comunque io me ne sono rassegnato, capiterà, vedremo. Tanto pigliamo noi. Tanto c'è un'altra polemica politica ieri in Parlamento, veramente, e anche sui giornali ha esondato, forse, la questione della legittima difesa, che ieri è stata approvata alla Camera. Tra le proteste, no? 3384, presidente Boldrini parlava, c'era Salvini che 3424. Rumoreggiava. Allora, in tribuna non si può gridare, è possibile far allontanare chi grida in tribuna? Grazie. Tra questi c'era Salvini, la Lega. Allora, state approvate le modifiche alla legittima difesa. Intanto bisogna dire, Oscar, stiamo parlando di una legge che chissà se sarà tale, perché adesso deve passare al Senato. Primo ramo. E Renzi ha già detto, non mi piace. Renzi è durato poche ore, perché cari deputati renziani, abituatevi. Verrete d'ora in poi sconfessati spesso, perché il vostro leader fiuta il vento elettorale sui social, e quindi dovete chiedergli ogni secondo come la pensa, perché sennò sarete sconfessati. O come la pensano in social. Insomma. Sì, perché è evidente che è così. Insomma, sotto voto, pensateci bene prima di votare. Poi c'è da dire questa cosa del fatto che è stato introdotto nell'articolo 53 del codice penale la modifica per cui se c'è un'aggressione di notte, nelle ore notturne, allora c'è una maggiore favore, insomma, per un, è una delle nuove circostanze previste per cui il giudice può riconoscere la legittima difesa. Ed è una stupidaggine, secondo me. Ed è una stupidaggine quella. C'è da dire che però Oscar è stata posta, come dire, vedi che è scoperta tutta l'ironia, se arrivano a mezzanotte cosa devo fare, se arrivano alle 11. In realtà viene anche introdotto l'idea che se si introduce un ladro con inganno, con minaccia, con violenza, questo a qualsiasi ora del giorno o della notte, anche questo è un elemento per favorire la non punibilità di chi reagisce. Quindi non è che, insomma, solo comunque, di notte. Resta il fatto, voglio dire, chi conosce l'articolo 52, cioè il codice penale con la legittima difesa, io accetto tutte le opinioni. La cosa che mi fa ridere è il perenne scontro politico italiano tra chi si intesta a destra l'impunibilità totale e dall'altra parte dice: ah, vuoi il far west? Perché anche la reazione di Renzi viene travolta non da una osservazione, secondo me logica e distaccata su quella norma, che non va bene, ma da questo scontro permanente per i voti, capisci? Non per la norma. La norma italiana aveva due caratteristiche, adesso diventano tre, che sono scivolose, perché pretende che chi è vittima di una rapina a mano armata in un bar, in un esercizio commerciale o a casa eserciti freddamente, secondo per secondo, una valutazione attentissima. Prima erano due cose. Quali sono queste due cose perché per poter reagire nella legittima difesa? Primo è la persistenza della minaccia a te e ai tuoi cari. La persistenza, cioè in ogni secondo, perché se lui abbassa la mano, già il giudice e il PM potrebbe dire che non ti sta più minacciando con la pistola. La persistenza. Secondo, la proporzionatezza della tua reazione. La proporzionatezza significa che se nella concitazione spari due colpi invece che uno, il secondo può essere che non sia proporzionato. Se lui gira una spalla e tu non capisci che sta facendo un passo. Adesso si aggiunge anche il turbamento. Il turbamento, si introduce anche il turbamento come categoria, come circostanza aggiuntiva da valutare. Allora, io che sono una persona, credo, abbastanza attento di essere ragionevole, da quella norma capisco solo una cosa, che è meglio che non reagisco, perché io non sono in grado di fare questa valutazione in pochi secondi, in pochi attimi. Invito chiunque a pensare di poter fare una valutazione così. Forse bisognerebbe levare queste circostanze psicologiche e avere una norma chiara, ma la politica non ce la regalerà. Vediamo, ne vogliamo parlare intanto con gli ascoltatori, se ci chiamano all'800 24 00 24. Salutiamo anche Carlo Nordio, magistrato, andato in pensione da poco. Buongiorno dottor Nordio, grazie di essere qui. Buongiorno, grazie a voi. Lei sul Messaggero oggi, estremamente riducendo quello che è il suo pensiero, in pratica fa capire nell'editoriale che non cambierà nulla. Questo, cioè che con questa legge, se mai diventerà legge perché deve passare anche al Senato, di fatto non cambierà nulla. E allora di che stiamo discutendo? Beh, bisogna intenderci sulla cambiamento, sul non cambiamento. Allora, diciamo subito, tanto che si sentono sempre espressioni improprie e grossolane quando si parla di legittima difesa, ad esempio quella che si introduce la possibilità di farsi giustizia da sé. Questa è una stupidaggine. Farsi giustizia da sé significa andare a casa del ladro a recuperare la refurtiva o andare a casa dell'assassino e ucciderlo. Qui invece si parla di reazione per impedire una aggressione peraltro che lo Stato avrebbe dovuto lui impedire e non è invece riuscito a impedire. Perché non cambierà nulla sostanzialmente? Perché se il cambiamento dovesse riguardare, come molti auspicano che concerna, l'affrancamento dell'individuo di chi reagisce in casa da un processo penale o da una indagine, tutto resterà come prima, perché le indagini ovviamente si faranno ancora e ci sarà ancora un ampio margine di discrezionalità da parte del magistrato. Intendiamoci, è ovvio che un'indagine va sempre fatta quando c'è un omicidio, anche se per legittima difesa o anche quando c'è semplicemente una sparatoria. Il fatto è che è l'impostazione teorica e dogmatica del nostro codice penale che rimane intatta. Mi spiego, la legittima difesa oggi è considerata, essendo inserita nell'articolo 52, ancorché modificato, però è sempre rimasto praticamente uguale, è inserito in un contesto di quelle che si chiamano cause di non punibilità o scriminanti o come le vogliamo chiamare, che è tipicamente fascista, del codice del 1930. Il nostro codice penale è firmato da Benito Mussolini e da Vittorio Emanuele III, anche se gli italiani non lo sanno. come considera la legittima difesa? Considera la legittima difesa come una sorta di benevola concessione che lo Stato fa al cittadino, il quale nel momento in cui dovesse difendersi nell'attualità del pericolo e con una logica di proporzione, come ha detto giustamente lei prima, non è punibile. Sì. Quindi lo Stato dice: tu commetti un reato, ma io non ti punisco perché in realtà ti posso capire. Ecco, questo perché parte dal presupposto, lo Stato, il codice fascista, che tu abbia dei limiti, tu cittadino abbia dei limiti entro i quali tu puoi reagire. Oltre questi limiti io ti punisco. Un codice liberale invece dovrebbe partire da una concezione completamente diversa, non i limiti entro i quali il cittadino può reagire, ma i limiti entro i quali lo Stato può punire un cittadino che ha reagito a una aggressione che lui, Stato, non è riuscito a impedire. Esatto, cioè che è dovuta un'aggressione che è dovuta a una mancanza dello Stato che non è riuscito a preservare la sicurezza del cittadino. Certo, perché il patto sociale che fa il cittadino con lo Stato è quello di cedere l'esercizio dei suoi diritti naturali, quello dell'incolumità, della proprietà, della vita, cede l'esercizio allo Stato perché si presume che lo Stato lo difenda. Sì. Ma se lo Stato è inadempiente e non riesce a evitare l'aggressione, il cittadino si riappropria dei propri diritti naturali e si difende e da sé, cosa che non ha niente a che vedere con il farsi giustizia. No, no, no, è chiaro, è chiaro. Ma è... Ovazione personale per quello che mi riguarda la tesi del... Sì, non cambia molto. Ci può spiegare anche questa cosa se l'ha capita bene della notte? Perché ha sentito i politici, sì. Cioè diventa... adesso c'è un profluvio anche di ironie sul fatto che se arriva alle 4 del pomeriggio non si può far niente. Ma guarda, allora io ho sentito sì in parte prima, poi ho seguito ovviamente che le polemiche, la politica ovviamente, la politica è una pas d'entraille, no? Come si dice, quindi si può anche capire che ci siano delle polemiche anche abbastanza grossolane e atecniche sul punto. No, invece a me pare che lo stesso relatore, l'onorevole Ermini, abbia chiarito, poi ho visto il testo, mi è stato mandato di recente, che è un po' diverso da quello che avevano dato i giornali. Cioè c'è una espressione disgiuntiva, un ovvero. Che significa una cosa molto semplice per noi tecnici del diritto. Cioè tu puoi difenderti in tempo di notte, sì. ovvero quindi a ipotesi diversa anche di giorno, se vi è una un'introduzione, una violazione di domicilio fatta con l'inganno, ovvero fatta travisati in volto, ovvero fatti con minaccia. Quindi questa cosa dell'esclusività della notte è un po' una forzatura. Secondo me è un errore che hanno fatto, adesso non so se sia un errore voluto o semplicemente una questione polemica o altro. Sta di fatto che qui la norma è abbastanza ragionevole, nel senso che è chiaro che se una persona entra di notte, la situazione sia psicologica sia oggettiva è molto, diciamo, ambigua e anche giustifica una reazione anche sproporzionata, perché sì. Chi si vede un'ombra notturna in camera da letto non sa se è venuta a rubare la biancheria o a violentare la bambina. Di giorno le ipotesi possono essere, può entrare un mendicante, può entrare un ragazzo che ha perduto il pallone nel giardino, ecco, in questo caso è ovvio che non si possa reagire sparando. Se invece uno entra travisato in volto, armato o con l'inganno, allora la legge presume che possa comportarsi come se fosse in tempo di notte. Quindi sì, sì. Queste polemiche secondo me sono abbastanza assurde. Un'ultima cosa invece a favore della legge, sono lieto perché poi noi lo scrivevamo proprio anche sul Messaggero da vari anni, che risarcisce, o meglio soccorre finanziariamente, sì, le vittime. Cioè se sono assolte poi la vittima viene assolte, almeno le spese legali pagate. Visto che un'indagine è necessaria e bisogna farla, perché lo vuole la legge, lo vuole la Costituzione, almeno che lo Stato paghi gli avvocati una volta che si è capito che la persona ha agito in stato di legittima difesa. Beh, questo è effettivamente una cosa sulla quale penso tutti siano d'accordo che sia giusta, insomma, almeno che, no, che non paghi, insomma, una persona che già poi viene sottoposta a un processo, un procedimento, almeno non paga, no? Ma posso aggiungere una cosa ancora, visto che mi hai lasciato? Sì. Allora, l'impostazione di un codice liberale, quello che dicevo io prima, che peraltro era quella che avevamo dato noi nella riforma del codice penale della commissione immediatamente presieduta da me 10 anni fa, era quella che si concludesse il processo, il procedimento, l'indagine, nel caso di procedimento per legittima difesa, con la formula molto radicale e molto liberatoria che il fatto di reato non sussiste, mentre oggi l'ambiguità continua perché si tratta sempre di una causa di non punibilità con la formula che il fatto non costituisce reato. Sì. Torniamo sempre lì, cioè la legittima difesa ancora oggi rimane una sorta di benevola concessione che lo Stato fa al cittadino, mentre in un ordinamento liberale il cittadino che si difende in casa non fa altro che sostituirsi a uno Stato che è inadempiente. Che è inassente. Devo dire che arrivano tanti messaggi, Oscar, su... dicono Nordio entri in politica, Nordio ministro della giustizia, dov'era dov'era finora il magistrato Nordio? A fare il suo mestiere, uno dei pochissimi magistrati praticamente liberali, per fortuna che lo ha fatto, dico io, per fortuna. No, anche perché poi se dicono entri in politica, quella stessa politica... Io queste cose le ho scritte vent'anni fa sui primi per libri fortuna. Le scrivo sul Messaggero e sul Gazzettino da anni, ma ho sempre detto che un magistrato non deve fare politica nemmeno dopo essere andato in pensione, però né prima né dopo né durante. Però noi tra poco andremo in pubblicità, poi ci sono gli ascoltatori e il dottor Nordio la ringraziamo, ma Oscar ha iniziato la puntata raccontando questa vicenda che non c'entra niente, ma se non è un magistrato ci può aiutare. Anche la legge in Italia è tanto chiara quanto la notte delle nuove attenuanti nella legittima difesa. Di un caporedattore in Rai, lo racconta ai giornali, che ha invitato la moglie non dicendo che era sua parente, la RAI per questo ha chiesto il licenziamento, ma ha vinto il ricorso perché la Cassazione ha stabilito che il coniugio non è parentela. Allora, dottor Nordio, ci aiuti a capire, moglie è parente o no? Cioè io posso invitare per un gettone a pagamento e non dire alla mia azienda che è un mio parente, la Cassazione dice questo e io non contravvengo la norma, per cui sarei licenziato secondo me giustamente, perché no, la moglie non è un parente, dice la Cassazione. Oscar io era un po' basito. No, io non ho parole, cioè Bisanzio è una culla di assoluta civiltà e trasparenza. No, ci aiuti a capire, Nordio, perché cioè, ci sono mariti a questo punto che pendono dalle labbra a capire se possono trattare come parente la moglie oppure no. Allora, non vorrei entrare in un campo che non è il mio, del diritto di famiglia, però credo che la Cassazione, non mi era nota questa cosa, volesse dire una cosa che è abbastanza elementare nel diritto civile, cioè la parentela, il diritto civile è considerata come vincolo di sangue, parente, il papà con il figlio, il nonno all'inizio. Con il nipote, eccetera. Gli altri sono affini. Ho capito, ma siccome la norma obbliga a dichiarare un favore o proventi o vantaggi per chi fa parte della propria cerca familiare, è ovvio, me la sarò scelta, non è di sangue, ma dovrei comunque dichiararlo. Se la Cassazione mi invita a non farlo, non ho parole col denaro pubblico della RAI, però va bene tutto. La ringraziamo, dottor Nordio, grazie per essere stato con noi, ovviamente. Andiamo un attimo in pubblicità. Perché ci sono tanti. Scusa, devo chiamare mia moglie, le devo dire che d'ora in poi. Puoi invitarla in non è mio padre, non si ma lei sarà. Ma lei terrà un sospiro di sollievo. Ma invita la concettone di presenza. No, sì, presenza qua, ma mi scappa da ridere. Tra l'altro, qua non è soldi pubblici, quindi è anche un po' diverso. Ma al di là di questo, non avevo capito. Adesso, questa sentenza, però, mi rimangio tutto. Un vantaggio di cui non avevo. Ma per Margherita farei salti di gioia. Vabbè, ce lo spieghi. All'idea, posto finalmente dire che non ti sono parente. È chiaro che lo so. Non potrò più dire a mia moglie ti levo dalla parentela, chi no, dice l'ascoltatore, certo. Per esempio. Non so, è un disastro. Tra poco ti levo dall'affinità. Ecco. Tra poco. 24 mattino. Attenti a noi due. Allora, sono le 8:45 minuti. Vedi l'eredità del fascismo, grande Nordio. Devo ricordare questo. Io ricordo sempre, da tanti anni, riscrivo sempre lo stesso pezzo sulla legittima difesa, perché intervengono ogni volta, ma l'equivoco resta sempre quello, che è un equivoco sui fondamenti dei diritti dell'uomo. C'è uno degli incipiti del capitolo 40 dei diritti e delle pene di Cesare Beccaria, che sembra scritto oggi su questo, e che fu citato da Thomas Jefferson addirittura quando c'era il dibattito all'inizio degli Stati Uniti, come disciplinare la portabilità delle armi, che poi divenne il secondo emendamento che dà il diritto a tutti gli americani di avere armi. No, noi non ce l'abbiamo, siamo in un'altra tradizione giuridica, però Cesare Beccaria scrive questo inizio del 40 capitolo dei diritti e delle pene, che è il capitolo intitolato delle idee false di utilità, e in cui mette in guardia proprio sul tema come si disciplina tenere le armi da parte dei cittadini, mette in guardia dalle leggi che credono di avere una buona idea di utilità, ovviamente, limitando il più possibile. E dice questa è una cosa giusta. E a quel punto però iniziano a codificare nelle leggi i casi in cui si può reagire se qualcuno usa le armi, che classicamente sta parlando della legittima difesa. Dice state attenti, cari legislatori, dice, perché se voi per il nobile scopo di limitare l'uso e il ricorso alle armi, idea falsa di utilità, dice falsa di fatti, però fate delle leggi incardinate sui casi in cui si può reagire da parte di chi non è abituato a usare le armi, voi produrrete delle norme che sono un favore a chi le armi le sa usare ed è in grado di valutare la vostra legge molto meglio a proprio vantaggio di chi, non sapendo usare le armi, reagirà in maniera concitata e voi lo condannerete. Esattamente la cosa della legittima difesa, lo scriveva Cesare Beccaria, capitolo 40 delle false di utilità, dei delitti e delle pene, andatelo a leggere, sembra scritto oggi. C'è Lucia che ci chiama da Padova, buongiorno. Buongiorno, grazie. Volevo riagganciarmi proprio a quello che diceva il dottor Giannino nell'ultimissimo intervento, che forse bisognerebbe uscire da un'ipocrisia di fondo, cioè il cittadino che ha un porto d'armi, a differenza del professionista, cioè di poliziotti, di tutte le forze dell'ordine, ha quel pezzo di carta e non è più assoggettato a nessun controllo né di natura fisica né di natura psichica e soprattutto non fa nessuna esercitazione di tiro. Per cui il libero cittadino non sa usare le armi, non è messo in condizioni di poter reagire in maniera adeguata e misurata ad una aggressione. Quindi forse bisognerebbe uscire da questa ipocrisia e capire che bisogna disciplinare e rendere l'uso delle armi da parte dei cittadini una questione organizzata, disciplinata e adeguata alla possibilità, altrimenti si mette in mano ad una persona che non è in grado di usarla uno strumento che rischia solamente di fargli passare un guaio. Sì, lei dice, Lucia, giustamente il controllo anche di chi poi le armi le ha, effettivamente gli si dà il porto d'armi e poi dopo chi controlla se le sanno usare? Beh, questo è anche un altro problema all'interno della questione armiamoci. Perché tutti, poi bisogna, no? Bisogna ricordare, no, che in Italia la detenzione non significa la legittima portabilità professionale, sono cose diverse. Certo, per la detenzione, casa, come dice la nostra ascoltatrice, e ha ragione, non sono previsti per esempio corsi, non sono previsti check. E se uno ti aggredisce in casa, bravo, la detenzione la usi quindi in casa. A maggior ragione, come puoi lì valutare secondo per secondo la proporzionatezza, la posizione delle spalle, per vedere, magari desiste o mi dà un ceffone, perché sai, caricare con una spalla, se io faccio così di fronte a te, tu non lo sai se io me ne sto andando o se ti sto dando un ceffone, per dire. Per di più adesso ci sarà il turbamento, poi magari anche l'ombra, la penombra, il sicomoro, il sicofante. Vabbè. Sentiamo Giuseppe da Ragusa, buongiorno. Buongiorno, io ho fatto la guardia giurata per tantissimi anni, ho tenuto l'arma anche fuori servizio e a un certo punto piano piano ho pensato di lasciarla a casa, è sempre un deterrente ma anche un pericolo per chi la tiene. Certo. Io invito chi volesse avere un'arma, intanto che ci sia una normale autorizzazione, deve fare un corso di tiro a segno, imparare il portamento dell'arma e come va usata. Non si spara mai direttamente a una persona, ma prima andrebbe sparato in aria, cercare di mettere in fuga il bandito. Sì, su questo Giuseppe, sa, se uno se lo trova in casa che ti punta la pistola, se spari in aria ottieni che lui spara a te. Ora dobbiamo sempre considerare che noi dobbiamo provare che siamo realmente in pericolo. Esatto, no, ma io questo dico, infatti la norma attuale a me, persona razionale, mi dice non reagire. Esatto, perché non riuscirei a provare. Secondo me è sbagliata in questo la norma. Io sono dell'idea che se uno mi entra in casa, nel momento in cui mi entra in casa per rubare, sono in pericolo. Anche se, voglio dire, anche se poi nel momento in cui urlo lui vuole scappare. Ma che cavolo ci fa in casa a rubare? No. È banale, è la che stessa cavolo ragione, ci fa cui, in casa lì a rubare? Se uno mi dice, perché spesso negli anni alcuni ascoltatori o alcuni lettori quando l'ho scritto mi hanno detto ah no Giannino, ma no, bisogna semplicemente chiedere ma come può convivere l'articolo 52, cioè devo provare di aver potuto reagire legittimamente, con per esempio l'articolo 383 del codice di procedura penale, che è quello che dice che ogni cittadino può procedere a un arresto in flagranza di reato. E allora tocca spiegare, e guardate che l'articolo, la giurisprudenza però lo sottopone a un tale elenco di limiti che è meglio non farlo, perché tanto non riuscireste a provare in un'aula giudiziaria che alla luce della giurisprudenza attuale davvero lo avete fatto legittimamente. Questo per dire, le norme o sono chiare o danno adito. Cioè io razionalmente, a parte che non ho armi e non le voglio avere a casa, ma detto tutto questo, penso che non reagirei, perché avrei paura di passare per omicidio volontario. Sì, poi sai, tu fai un discorso razionale, forse in quel momento non saresti molto razionale. Siccome sono razionale, so che lì non puoi essere razionale. Ma tu vuoi applicare la razionalità in un momento in cui l'adrenalina magari ti può l'adrenalina, il battito cardiaco, il ritmo respiratorio, che cambia tutto. Pensa un po', ti arriva qualcuno accanto, ti punta la pistola. Ci farei così, ma non lo sai cosa faresti. Ma io dico, escludilo, punto, perché sei in preda ad altro. Figurati se io sono in grado di valutare. C'è Maurizio di Abiella, buongiorno Maurizio. Sì, buongiorno, senta, io è una cosa che mi ha toccato di persona, io sono un ex carabiniere. Sì. Ecco, io vi faccio una domanda, la differenza tra un rapinatore e uno che va di notte negli alloggi, ve la spiego io. Io se vado a affrontare una rapina, comunque che ci sono dei rapinatori, è gente pronta a tutto. Di notte se vado a prendere un ladro scappa perché non va a fare le rapine, ha molto più paura. Ora, chi va di giorno va nelle case dove sa che c'è gente e va armato. È un rischio maggiore, punto uno. Punto due, non capisco perché nel nostro paese, come fanno le agevolazioni per gli alloggi, non mettono agevolazione per comprare quei taster, come si chiamano, quelle pistole elettriche che sono in America. Sì. Io posso reagire senza avere problemi di coscienza e immobilizzo una persona. Una su mille può avere un infarto. Ma sa, però Maurizio, c'è la questione che poi armare le persone, ma poi le persone le armi le devono sapere usare. Come ci ha detto il dottor Nordio, noi facciamo un patto sociale per cui paghiamo le tasse e tra le tasse da pagare ci sarebbe il fatto che lo Stato ci deve proteggere con le forze dell'ordine. Ed è lì la questione. Poi la questione giorno-notte, ci ha spiegato anche lì Nordio, che è un po' pretestuosa in realtà. Se arriva di giorno si può reagire come se arriva di notte. Attenzione, non devo richiamare all'ex appartenente alle forze dell'ordine che rapinatore. Allora, la questione è la reazione proporzionata è analoga nella nostra giurisprudenza per la minaccia di vita a sé e propri cari o anche a difesa della proprietà? È violazione della proprietà? La risposta è no. Nelle sentenze non è affatto analoga, malgrado, ripeto, che se uno va a vedere nel codice civile il principio generale è la difesa della proprietà come diritto naturale, ma le eccezioni sono infinite. Ecco, quindi anche lì guardate che la proporzionatezza significa se ha un'arma è un conto, se non ce l'ha è un altro, anche se nelle modifiche del 2006 di oggi dell'articolo 52 si introduce l'idea della violazione del domicilio che prima non era così chiara, però attenti. Vediamo se con Giulio da Latina chiudiamo. Giulio, buongiorno a tutti, buongiorno e buon lavoro a tutti. Io voglio intervenire su questo aspetto perché in parte la signora Lucia ha già detto delle cose molto importanti. Io ho fatto a botto una volta sola a 15 anni, non sono capace ad affrontare le persone, ma quel ragazzo l'ho mandato all'ospedale. Come tutte le persone non capaci, ho paura della mia emotività e della mia reazione. Il problema è un altro, è perché noi stiamo parlando dell'effetto e non della causa, cioè il fatto che va riorganizzato il controllo del territorio, vanno tolte tutte le forze dell'ordine dai ruoli amministrativi, perché se voi vedete quante, chiedete a qualsiasi poliziotto quante pattuglie ci sono la sera a Roma, e vi farete una risata. Cioè c'è una disgregazione da questo punto di vista in cui non si è mai messo mano alla riorganizzazione e il controllo preventivo del territorio. Io non voglio che, cioè io voglio delegare allo Stato, io pago 40-50 mila euro l'anno tra il mio personale e la mia azienda, io voglio essere assistito nella sanità, nell'ordine pubblico, non posso pensare di essere io una persona che si organizza, come faccio a tenere una pistola di fronte a un professionista del crimine? Diventa una cosa, cioè partiamo dalla causa, io voglio il controllo del territorio fuori tutta la politica, le ruoli amministrativi. È chiarissimo, perché siamo in conclusione, cioè dice lei non vuole, come dire, essere delegato da uno Stato che ha delle mancanze a doversi difendere, visto che lei vorrebbe che lo Stato intervenga con le forze dell'ordine a proteggere, faccia il proprio ruolo. Ma può essere lo Stato nella camera da letto di ognuno, però almeno io non lo voglio. Anche, già ho scoperto vera. Di avere questa una moglie non parente oggi, grazie allo Stato. Margherita, non sei mio parente. Però è affine, dai, però è affine. Allora, ci troviamo lunedì con Elisabetta Fuscoli, Lorenzo Nespoli, Peter Bescapè in regia e con noi a lunedì. A lunedì.